9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, oggi una versione di Oscar un pochino d'emergenza, perché per un contrattempo io la sto facendo al telefono da fuori, ma abbiamo organizzato un collegamento in maniera tale che mi consenta, speriamo, l'accesso alle telefonate vostre e quelle degli ospiti, e quindi potrò farlo, ma se sentite una piccola differenza nella mia voce dipende dal fatto che sono collegato telefonicamente e non sono in diretta in questo momento dallo studio, e quindi mi scuso, perché l'origine del contrattempo è il fatto che una volta ogni anno e mezzo può capitare un imprevedibile incidente, però insomma, niente di grave, e speriamo che, di essere all'altezza, ovviamente da parte mia, che sono il colpevole, me ne assumo la responsabilità, di essere in grado di comunque darvi un buon servizio. A che tema abbiamo dedicato oggi? Abbiamo scelto di dedicare questa puntata di inizio settimana, questo 10 di gennaio, l'esplosione della polemica che era avvenuta giorni fa, ancora una volta, sui temi della giustizia, ci aveva indotto a un approfondimento di riflessione. Vi ricordate, è avvenuto nei primissimi giorni di quest'anno, quando il ministro di giustizia Alfano aveva dovuto lamentare, diciamo, scegliendo bene i toni, calibrandoli, non esagerando, però insomma, dal suo punto di vista, essendo uno dei ministri che non è abituato a fare polemiche interne alla compagine di governo, aveva detto: io non so come dirlo, ma il ministro dell'economia Giulio Tremonti non ci aiuta, perché ci aspettavamo da parte sua delle risorse confermate per il 2011 per l'informatizzazione degli uffici giudiziari e l'assistenza informatica agli uffici giudiziari, però queste risorse non sono saltate fuori e qui ci sarà un problema grosso. Dopodiché l'Associazione Nazionale Magistrati ne aveva approfittato per una denuncia dai toni seri, molto allarmati, aveva denunciato una paralisi complessiva del sistema, sto usando parole testuali dell'appello lanciato dall'ANM, aveva paventato, ripeto, a leggere testualmente dall'appello, la chiusura dei tribunali, l'impossibilità per le imprese private di partecipare a gare di appalto e concorsi, e per questo l'Associazione Nazionale dei Magistrati aveva annunciato una protesta forte e decisa, aveva parlato di un colpo finale del governo, addirittura un colpo finale del governo a una macchina che ha già enormi difficoltà di funzionamento. Si erano aggiunte le dichiarazioni molto dure delle diverse correnti della vita associativa della magistratura, e quindi era stata una delle tante diverse occasioni nelle quali il sistema della giustizia lamentava il fatto che in buona sostanza i politici sono buoni soltanto a portare colpi alla credibilità della giustizia, ma quando si tratta poi davvero di procurare risorse e di trovare efficaci soluzioni ai problemi storici della organizzazione della giustizia nel nostro paese, che non è molto efficiente, in questo la politica non è all'altezza. Allora, si trattava di una cifra, l'ordine di grandezza generale della cifra era indicato in 33 milioni, poi era stato detto che erano 10-15 milioni quelli che bastavano in quanto tali. Dopo 36 ore il ministro Alfano ha dovuto fare una specie di marcia indietro, dicendo: vabbè, non vi preoccupate, ho avuto la garanzia che le risorse vi saranno. Ma di fronte a tutto questo, in realtà, io mi sono preoccupato di capire un pochino, perché mi ero incuriosito, qual era stato l'ammontare delle risorse ufficialmente destinate a questo specifico problema, quello della informatizzazione della macchina giustizia del nostro paese, negli anni precedenti, perché mi ero posto il problema di capire, ma andiamo un secondo a vedere se e come c'è stata davvero una penuria di risorse, se davvero la politica non è stata in grado di garantire risorse adeguate. Cosa diversa poi da capire ancora come sono state spese, perché come al solito c'è poi un problema al di là dell'ammontare delle risorse destinate a una finalità nel nostro ordinamento pubblico, del capire poi come davvero, se queste spese sono state fatte, in che cosa si sono tradotte. E devo dirvi la verità, che una volta che il ministro ha comunque garantito che il problema delle risorse non c'era per il 2011 e quindi avremmo potuto anche soprassedere dal punto di vista giornalistico dicendo: tanto oramai l'allarme è rientrato, io invece la decisione poi di fare comunque questa trasmissione stamattina l'ho confermata. Perché? Perché a un certo punto, andando a vedere nei bilanci dello Stato degli anni precedenti, facendo una somma che a mio giudizio non è tanto spannometrica, a dirvi la verità, perché io sono andato a vedermi le cifre competenza e cassa che sono state che risultano effettivamente spese tra il 1999 e il 2008, e facendo la somma di tutti gli ammontari di spesa pubblica destinati alla digitalizzazione della giustizia italiana, io mi sono trovato in 10 anni, tra il 99 e il 2008, cioè quelli sui quali ho potuto fare la verifica, alla somma di 1,5 miliardi di euro in 10 anni, speso per a ordine diverso, a titolo diverso, in progetti ordinari e straordinari per digitalizzare la giustizia italiana. E devo dire che la cifra, sbaglierò io, ma mi sembra di un rilievo tale in un decennio, ripeto, ma 1,5 miliardi di euro, 1,5 miliardi di euro, insomma, 3.000 miliardi di vecchie lirette. Mi chiedo se davvero si debba considerare, dopo 10 anni di spese sommate di questo ammontare, la digitalizzazione della giustizia messa ancora a un punto tale per cui se mancano i 10 milioni, 15 milioni o anche 30 milioni per il 2011, la risposta che viene dall'interno del sistema, e alla quale non voglio attribuire nessun punto di vista pregiudiziale, è quello di dire: guardate che noi qui dobbiamo chiudere gli uffici e chiudere i tribunali. È vero che se uno va a vedere in che cosa consiste, per i non addetti ai lavori, il sistema della giustizia italiana, è questo maxi investimento in 10 anni, cioè di 1,5 miliardi di euro, significa 1.800 uffici, 60-70 mila computer, 5 mila server, sistemi che ancora non dialogano tra loro, ma quando anche, ripeto, stiamo parlando di 5 mila server e 1.800 uffici e 60-70 mila computer, resta che 1,5 miliardi di euro tra hardware e software consente, se ottimizzato, io questo non sono in grado di giudicarlo, più o meno, voglio dire, di organizzare sistemi di digitalizzazione, ma per reti tecnologiche avanzatissime di controllo dei satelliti. Adesso lo voglio dire, quando dico di controllo dei satelliti, non esagero davvero. Allora, sulla base di questo ulteriore elemento, che quindi mi è sembrato di una certa preoccupante rilievo e che mi sembrava più importante quasi delle cifre di cui il ministro lamentava, prima il fatto che Tremonti non le desse, poi rassicurando invece che fossero messe a disposizione, abbiamo confermato l'idea di sentire da addetti ai lavori e, ripeto, al di fuori di ogni polemica politica tra magistratura e governo attuale, quello diamolo per scontato. Sappiamo che viviamo da anni in una condizione nella quale, intorno alla riforma dell'ordinamento giudiziario, ci sono forti polemiche politiche, ma oggi non parliamo di quello, non perché non vogliamo parlarne, ma perché intendiamo sapere dagli addetti ai lavori, quindi dai magistrati, dagli avvocati, dai cancellieri, come stanno effettivamente le cose, perché a questo punto altrimenti noi non riusciamo a capire bene le cose. Sapete che il sistema giustizia nel nostro paese purtroppo non ci consente di essere molto fieri dei suoi risultati, perché qualunque sia la graduatoria comparata sulla quale andiamo a vedere la valutazione del nostro sistema di far rispettare i contratti, che è uno dei criteri classici per attirare gli investimenti stranieri nel nostro paese, noi siamo bassissimi nelle graduatorie. Se andiamo a vedere il rapporto Doing Business della Banca Mondiale per il 2010, la graduatoria per la capacità appunto di efficienza del sistema giustizia, l'Italia è al 156esimo posto su 183. E prima di noi vengono paesi come il Sudan, il Ruanda, il Nicaragua, quindi insomma, diciamo, non stiamo proprio effettivamente in grande spolvero, e questo spiega anche perché poi magari nella media degli ultimi 4-5 anni alle nostre spalle gli investimenti diretti esteri non sono andati oltre l'1,3-1,4% del PIL ogni anno, rispetto a una media superiore al 4% nell'area dell'euro, perché effettivamente la mala giustizia, il ritardo della giustizia, soprattutto quella civile oltre che penale, è un divario tale che effettivamente viene considerato come uno degli elementi dirimenti per scoraggiare gli investimenti nel nostro paese. Per capirci, a oggi in media, questi erano dati del 2009, a nord la durata di un processo penale è di 230 giorni, a sud di 560. A nord un processo civile dura 345-350 giorni, a sud dura 754 e così via. Quindi le graduatorie di produttività sono abbastanza basse. Però ci sono anche poi esempi, ed è di questo che naturalmente vogliamo parlare, esempi di cui oramai negli ultimi 2-3 anni si è sentito parlare incessantemente, grazie anche a Luca Ricolfi e ai suoi libri, gli esempi cioè dei tribunali di Torino e di Bolzano, in cui capi di uffici giudiziari di impatto diverso, quindi numero di pendenze di processi diverse e di rilievo diverso nella vita nazionale, però hanno dimostrato come con le risorse a disposizione, senza particolari straordinariamente aggiuntivi finanziamenti ottenuti, tuttavia si è riusciti a ottenere che le pendenze siano diminuite nell'ordine del 60-70%, grazie semplicemente a una diversa efficienza o determinazione nell'organizzazione degli uffici. Allora, fatta tutta questa lunga premessa per capire, è vero o non è vero che le risorse sono state adeguate o inadeguate, visto che 1,5 miliardi in 10 anni non è, almeno sembra a me, non proprio poco. Punto numero uno. Punto numero due. Invece, sono state spese bene o sono state spese male, visto che tanti server e tanti computer vengono testimoniati ancora come tra loro non dialoganti? Infine, è proprio vero che non ci si può ottenere efficienza migliore nelle pendenze dei processi, nell'organizzazione dell'attribuzione degli fascicoli, eccetera, eccetera, semplicemente con questioni organizzative, cioè partendo dal basso e dalla buona volontà di chi è a capo degli uffici e da chi vi lavora e vi ha assegnato? Queste sono le semplici questioni che iniziamo a porre ai nostri ospiti di oggi, che molto ringrazio per essere collegati con noi. Abbiamo innanzitutto Livia Pomodoro, che è il presidente del Tribunale di Milano. Buongiorno, dottoressa Pomodoro. Buongiorno. Abbiamo Vincenzo Maria De Nicolis, che è cancelliere presso il Tribunale Ordinario di Roma. Buongiorno. Buongiorno. E abbiamo Salvatore Scuto, che è presidente della Camera Penale di Milano, quindi per gli avvocati. Buongiorno, avvocato Scuto. Buongiorno, direttore. Allora, inizierei inevitabilmente da Livia Pomodoro, dal presidente del Tribunale di Milano, che proprio all'inaugurazione dell'anno giudiziario ha riferito di quello che a Milano sta avvenendo in termini di smaltimento dell'arretrato, per così dire, dando dei buoni numeri. Però, prima di dirci come le cose stanno a Milano, ripeto, le tre questioni sono più o meno chiare, quelle che ho messo. Primo, le risorse sono state adeguate o come sono state spese? Secondo, come succede che nel venire spese capiti ancora che dopo 10 anni stiamo così, e cioè che i magistrati ci dicono guardate che qui siamo in condizioni di stato d'emergenza, che chiudiamo i tribunali se mancano le cifre domani e per quest'anno? E poi terzo, cosa si può fare di meglio partendo dal basso e dandosi una mano, per così dire, con quel che c'è? Prego, dottoressa Pomodoro. Bene, buongiorno. Allora io partirei innanzitutto da un dato. La quantità di risorse messe a disposizione dell'amministrazione della giustizia nel decennio precedente. Certamente fa impressione sentir parlare di 1,5 miliardi di euro. C'è anche da dire che si tratta di spalmare questa cifra su tutti i tribunali e le corti d'appello d'Italia, e quindi poi bisogna vedere come dire, singolarmente cos'è accaduto e come è stato speso questo denaro. Si tratta naturalmente di un'attività prevalentemente centralizzata, quindi è il Ministero della Giustizia che fa l'assegnazione dei fondi e la fa anche sulla base delle risorse, e che la fa anche sulla base delle proposte che ci sono, degli stati di avanzamento dell'attività informatica e così via. Ecco, io devo dire che per quanto riguarda la Corte, il Tribunale e in qualche modo anche la Corte d'Appello di Milano, le risorse sono sempre state insufficienti rispetto ai progetti e ai programmi messi in campo. Devo anche dire che però nei sistemi informatici, sistemi di innovazione, sono sistemi che richiedono molte risorse e hanno anche un limite, che se la progettualità non è coerente fin dall'inizio, cioè se non c'è un'idea sulla quale si deve procedere per ottenere un risultato, il rischio è che se questa idea si deve formare in progress si sprechi parte di questo denaro. Quanto poi al fatto che può essere accaduto che si sia sprecato del denaro, io non posso escluderlo, no, né confermarlo, certo, perché certo. Ovviamente non lo so e non mi sono occupata del bilancio in questo però periodo. La sensazione che ha lei a Milano, dottoressa Mondolo, è che da questo punto di vista quello che si è fatto in questi anni fa stare i suoi uffici, quelli collegati eccetera, in una condizione che è, diciamo, ancora sotto l'insufficienza e a malapena la sufficienza. Le parlo della mia personale esperienza. Sì. Quando io sono arrivata 4 anni fa in questo tribunale, che è uno, come lei sa, dei più grandi d'Italia insieme con Roma e Napoli, io ho trovato una situazione allucinante, perché vi erano certamente alcune attività promozione e di innovazione per l'attività lavorativa dei magistrati, vi erano certamente degli sforzi fatti dai magistrati anche singolarmente per ottenere risultati adeguati alla richiesta di giustizia, ma vi era sicuramente anche una grande confusione, cioè una incapacità da parte dei vertici. Questo lo devo dire perché corrisponde esattamente a quello che io ho individuato venendo qui a Milano, di programmare sul lungo periodo. Non si può programmare fino a dopodomani, perché se questo accade evidentemente il denaro che si investe in questa programmazione breve è denaro sprecato. Allora noi ci siamo rimboccati le maniche, ci siamo domandati che cosa si poteva fare. Io ho avuto la fortuna di avere collaboratori attenti e sensibili a questi problemi e noi siamo stati in grado di mettere in piedi prima il tavolo per il piano strategico per la giustizia a Milano, poi siamo stati in grado di portare avanti. Le faccio solo un esempio: gli avvocati spesso ci dicono, e hanno anche ragione, che il sistema per l'informatizzazione dei decreti ingiuntivi è cominciato nel lontano 1997-98 e nel 2000 già c'erano le prime indicazioni a Milano. Bene, io le devo dire che nel 2007, quando io ho cominciato a mettere mano al decreto ingiuntivo, c'erano molta buona volontà da parte di tutti, ma non c'era un progetto che fosse un vero progetto. Quando abbiamo cominciato a lavorare sul progetto, con l'aiuto prezioso dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che sono stati assolutamente disponibili e che hanno posto a disposizione anche delle risorse economiche, e con la collaborazione di tantissimi organi, io ho cercato di fare in modo che il Tribunale fosse in rete con tutto quello che c'è nella società civile. Noi non siamo il tempio isolato nel quale si celebrano i riti della giustizia, noi siamo l'amministrazione della giustizia per i cittadini. Però, questa... dottoressa Pomodoro, senza voler interrompere, ma per capire se ho capito bene io, e quindi far capire meglio ancora chi è a casa, mi sta dicendo, se ho capito bene, che tirandosi sulle maniche e cambiando i criteri un pochino organizzativi... Bisogna cambiare le prospettive, quello che sto cercando di dire è che fino ad oggi non ci sono state prospettive di progetto, ci sono state proposte anche meritevoli, per carità, anche positive, ma lei pensa, appunto, lei ha citato il presidente Barbuto, bravissimo. Sì. Ma il presidente Barbuto ha potuto ridurre l'arretrato non in un giorno, ma in un lungo periodo, avendo questo obiettivo. Se non c'erano gli obiettivi, come si fa a raggiungere dei risultati? Bene, allora, diciamo, lei dice si può fare e ci stiamo provando anche noi. Questo è quello che mi interessa capire. Naturalmente il lungo obiettivo è quello poi necessario per mettersi, per così dire, in rete, come si dice con un termine un po' improprio, ma anche, visto che stiamo parlando poi di accesso a documenti da parte degli avvocati, delle parti in questione del procedimento e così via, e poi nel tempo procedere. Ma dovesse dare un giudizio ancora, le chiedo solo questo: tecnicamente sull'ammontare delle risorse, lei negli anni prossimi, quelli in cui deve continuare a esercitare il suo compito e quindi deve fare la programmazione, attenzione insieme a tutti quelli che lavorano insieme a lei a questo. Le risorse che ha continuano a essere inadeguate? Sì, parecchio, tanto, ce la si può fare, come stanno le cose? Tecnicamente. Ma guardi, le risorse ci sono progressivamente ridotte nel tempo per via delle tante finanziarie che hanno naturalmente fatto dei tagli alle, anche a questo tipo di risorse. Noi abbiamo anche individuato e stiamo lavorando anche in questa direzione la possibilità di ottenere risorse aggiuntive, cioè che non tolgano spessore e potere alle risorse dell'amministrazione, ma comunque si aggiungono a quelle dell'amministrazione anche attraverso altri canali. Ho la fortuna di essere a Milano, quindi noi siamo proiettati verso una grande esperienza mondiale che è quella dell'Expo. Abbiamo chiesto di avere dei fondi speciali che abbiamo ottenuto l'anno scorso, spero ancora di ottenerli quest'anno, e siano finalizzati ad ammodernare all'innovazione dell'amministrazione della giustizia nel distretto della Lombardia, ma in particolare nella Corte d'Appello e nel Tribunale di Milano, così da poter continuare i progetti che pure abbiamo in corso, sempre coordinati col Ministero della Giustizia. Va bene, ora adesso viene il momento della pubblicità. Io spero che, prego che la dottoressa Alfonodoli potesse fermare con noi anche nella seconda parte, in cui sentiamo gli altri ospiti per vedere i punti di vista delle altre parti, per così dire, nel sistema della giustizia. Sì, tra poco pubblicità. Eccoci tornati, non posso dire in studio, ma insomma in collegamento, Oscar Giannino. Sentiamo un secondo, tra l'altro, oltre agli altri ospiti, abbiamo sentito la dottoressa Livia Pomodoro, oltre a Vincenzo Maria De Nittolis, cancelliere presso il Tribunale Ordinario di Roma, a Salvatore Scuro, presidente della Camera Penale di Milano, si è aggiunto Cuno Tarfusser, che attualmente è giudice italiano all'Alta Corte Penale Internazionale dell'Aia, ma è stato il protagonista, insieme al presidente Barbuto, che abbiamo ricordato, dell'esperienza che poi a Bolzano ha visto invece fare anche lì un salto in avanti nella circoscrizione giudiziaria per quanto riguarda l'efficienza e i carichi pendenti. E comincerei, buongiorno Tartusser. Buongiorno. Comincerei proprio da lei per chiedere la sua opinione, la sua esperienza in relazione a quello che ci diceva la dottoressa Pomodoro quando diceva in realtà se si assume una programmazione di medio-lungo periodo e si cerca di fare il meglio con quello che si ha, al di là delle giuste, legittime richieste per avere di più, però insomma si possono ottenere risultati importanti. Dal suo punto di vista qual è la chiave di volta, al di là delle polemiche, troppe polemiche sul sistema della giustizia, per vedere di come tirarsi sulle maniche e che cosa concretamente si può produrre? Io sono abbastanza d'accordo con la dottoressa Pomodoro, ed è quello poi che abbiamo fatto noi. Quando io sono diventato procuratore della Repubblica a Bolzano, ho cercato di abbandonare una visione che adesso chiamo magistratocentrica o stratificata di un ufficio giudiziario, nel senso di vedere i magistrati e poi anche eventualmente il personale amministrativo, la polizia giudiziaria nel caso di una procura, e di vedere l'ufficio giudiziario come un'organizzazione complessa in cui tutti hanno un ruolo e una funzione ben determinata, cioè un po' come una catena in cui tutti devono essere anche molto consapevoli del proprio ruolo, e quindi valorizzando questi ruoli, valorizzando il personale amministrativo, cercando anche di chiedere all'esterno agli avvocati su come si può cambiare per migliorare il servizio, e ovviamente un'organizzazione complessa. In un'organizzazione complessa la prima cosa che si deve fare è individuare i processi lavorativi, cioè non più ogni singolo fa una parte senza sapere cosa fa l'altro, ma vederli come un processo lavorativo, quindi analizzare questi processi lavorativi, ottimizzarli, razionalizzarli, economizzarli. E in questo rientra anche un fatto secondo me molto importante e che non è molto diffuso nell'ambito della giustizia, dell'amministrazione della giustizia in Italia, e cioè che la giustizia costa tantissimo, ma solo analizzando questi dati, questi costi, ci si rende conto e si può intervenire attraverso nuove contrattazioni, attraverso nuove applicazioni informatiche che poi vengono molto spesso dallo stesso personale amministrativo, che si entusiasma a questo lavoro. Una volta coinvolto e responsabilizzato si trovano delle risorse che prima giacevano, a un certo punto si liberano e vengono riversate nell'ambito della gestione di un ufficio. Cioè, vogliamo ricordare che cosa siete riusciti a fare nell'unità di tempo come risultati concreti? Ma il nostro progetto è durato 3 anni, alla fine di questi 3 anni abbiamo sostanzialmente abbattuto i costi da un circa 2 milioni e parlo di spese di giustizia, quindi di spese di investigazioni sostanzialmente, da 2 milioni siamo arrivati a 750-800 mila euro, quindi oltre quasi il 70% di euro. Ma un altro dato che io ritengo molto importante. Quasi il 70% di risparmi. Sì, abbiamo speso all'anno 70% in meno rispetto a quello che si spendeva prima. Prima si spendeva in un anno circa 2 milioni, adesso si spende circa 700-800 mila euro. Questo è il risparmio, poi moltiplicato sugli anni. Però quello che io vorrei ancora puntualizzare, che mi sembra estremamente importante, è quello della trasparenza. Noi siamo una categoria che chiediamo sempre trasparenza a tutti, anche io parlo specialmente da pubblico ministero nell'ambito delle investigazioni, ma noi non siamo assolutamente, non abbiamo nessuna volontà di essere trasparenti noi stessi. Noi, ora naturalmente, io lei sa che sta dando giudizi che sono tali da, immagino, però nella dialettica pubblica italiana a cui siamo abituati da decenni sulla magistratura e nel sistema giustizia rispetto alla politica, dà dei giudizi rispetto ai quali i vertici dell'associazionismo, l'ANM eccetera eccetera molto probabilmente sarebbero critici e li respingerebbero, dottor Tarpur. Non lo so cosa farebbero i vertici, io dico quello che penso io, quindi io non mi sono mai occupato di quello che dicono i vertici né degli uni né degli altri, però io credo che noi dobbiamo un po' abbandonare il concetto ipertrofico di autonomia e indipendenza, che ormai corrisponde a una sorta di immunità giudiziaria. Io credo che l'autonomia e l'indipendenza, per cui io combatterei fino alla morte, certo, è un concetto che riguarda però la giurisdizione, non riguarda l'organizzazione e l'amministrazione di un ufficio giudiziario. Quindi bisogna cercare di trovare una linea di demarcazione, poi ci saranno le zone grigie tra quello che è giurisdizione e per cui l'autonomia e l'indipendenza va difesa con unguibus et rostris dall'amministrazione. E in questo io credo la trasparenza aiuti moltissimo, cioè essere trasparenti. Noi abbiamo, cosa abbiamo fatto? Per i quattro anni che poi io sono rimasto a Bolzano prima di venire via, abbiamo edito e pubblicato un bilancio sociale in cui diamo atto di quello che stiamo facendo, di quello che abbiamo fatto, di chi siamo, di quali tipo di attività investigative abbiamo svolto, quali sono i reati per cui siamo intervenuti, in che tempi abbiamo risolto le problematiche. Nel momento in cui il capo dell'ufficio è obbligato, ma io questo lo dico da anni, è obbligato a rendere conto di quello che fa e secondo me dovrebbe essere obbligato a rendere conto, in quel momento è quasi una... In modo automatico l'ufficio viene migliorato sotto un profilo organizzativo, perché nessuno vuole rendere conto del male che ha nel proprio ufficio, ma tendenzialmente del bene o dei miglioramenti costanti, solo che noi non siamo obbligati a rendere conto a nessuno. Questo posso chiedere e ringraziarla anche della chiarezza con cui ha dato conto, insomma, di questa innovazione, ma anche del giudizio sottostante. La dottoressa Pomodoro, che reazioni avrebbe in lei fatto se il ministro, che è responsabile dell'organizzazione appunto dell'efficienza degli uffici, e non deve assolutamente, ribadiamolo, noi non stiamo minimamente sfiorando né vogliamo mai toccare l'autonomia e l'indipendenza nella giurisdizione, ma quale sarebbe secondo la sua valutazione personale, ma anche insomma quella per come conosce la magistratura italiana, se un ministro dicesse facciamo questa innovazione, prendiamo l'idea di questo bilancio sociale esteso a tutte le componenti del sistema della giustizia come via ordinaria messa in capo ai responsabili di ogni ufficio e di ogni circoscrizione giudiziaria, lei come la prenderebbe, dottoressa Pomodoro? non è collegata, è caduta la linea, e allora chiediamo... Ma posso dire io? Sì. Cioè, beh, io credo che sia, non è che uno la deve prendere, io dico l'articolo 110 della Costituzione dice che il ministro è responsabile dell'organizzazione. Esatto. E l'organizzazione la fa attraverso i capi degli uffici che sono sul territorio. Ma può il ministro non avere, può essere che il ministro non ha il diritto di sapere come vengono impiegate le sue risorse? La mia domanda. Ma ecco, questa mi sembra una domanda giusta, però lei sa che attualmente la risposta a questa domanda è abbastanza più sì che no, è così, cioè ha diritto nel senso che viene tenuto in quella condizione. Ma ripeto, non voglio sollevare polemiche. Sentiamo invece come funziona concretamente a suo giudizio da parte del Presidente della Camera Penale di Milano l'accesso ai documenti, per esempio, visto che stiamo parlando di informatizzazione degli uffici giudiziari, tenete conto che l'accesso naturalmente ai documenti, per esempio, per la parte che innanzitutto ha il maggior impatto per la vita, l'efficienza delle imprese, cioè la giustizia civile, è una delle questioni fondamentali, perché poi la gente ha sempre in testa il processo penale, però naturalmente per la vita dell'economia e delle imprese la giustizia civile è il primo fondamento in ordine all'esecutività dei contratti, che sono una cosa fondamentale nel rapporto tra privati e nel contenzioso tra privati. Allora sentiamo il Presidente della Camera Penale di Milano che impressione ha invece rispetto a questa polemica. Dottor Scuto. Buongiorno ancora. Senta, io apprezzo molto l'impostazione che lei ha dato alla problematica, perché diciamo è un'impostazione laica e molto pragmatica. La prima considerazione che mi sento di muovere è questa. A fronte di quella cifra straordinaria di 1,5 miliardi di euro spesa in 10 anni, io credo che il problema sia esattamente quello che si avverte per esempio negli acquedotti del Meridione, che sono dei colabrodo, per cui sprecare energie per immettere acqua negli stessi ha come risultato quasi zero. Il problema allora qual è? Il problema è che noi abbiamo in questo momento, ormai da decenni, una mappa geopolitica, per esempio, della giustizia in Italia assolutamente superata e veramente inattuale. Cioè abbiamo decine e decine di uffici giudiziari che non hanno più senso di esistere. Siamo un paese dai mille campanili, dai guelfi, dai ghibellini, dai pali, no? Per cui appena si tocca una di queste rendite succede chissà che cosa. Ecco, già una razionalizzazione degli uffici giudiziari nella mappa geopolitica della giustizia in Italia potrebbe essere dovrebbe essere il primo passo per poter poi far sì che tutti questi sforzi, queste energie così importanti possano arrivare ad un risultato efficiente e razionale. La situazione. Quindi, naturalmente, una drastica ridefinizione significherebbero meno sedi di tribunale. Meno sedi, e poi soprattutto è veramente il concetto centrale è quello che ha espresso il dottor Tarfusser, cioè autonomia della funzione giurisdizionale, siamo pronti tutti a combattere per difenderla fino alla morte. Ma che vi sia una riorganizzazione anche centralizzata degli uffici, questo è un dato altrettanto ineludibile. Io credo, fra l'altro, che uno dei tanti problemi che affliggono sotto il fronte dell'informatizzazione degli uffici giudiziari è anche che, contrariamente a questo contratto di assistenza, che era un contratto virtuoso perché nazionale, poi credo che ognuno dei campanili magari avrà avuto una contrattazione, come dire, con tanti enti che alla fine hanno messo in piedi un sistema che, fra l'altro, stenta anche a interfacciarsi, no? Quindi certo, c'è anche questo problema qui. Scendendo ancora più nel particolare, però c'è un'analogia importante. Così come dobbiamo immettere acqua in un acquedotto che funzioni bene, che non sia un colabrodo, l'informatizzazione, per esempio, nel processo penale, che è quello che mi riguarda più da vicino, è sicuramente una pratica da perseguire, e così come anche facendo riferimento a delle esperienze virtuose. Ma prima ancora di poterla implementare bisognerebbe in qualche modo, per esempio, fare alcune cernite. Se noi dobbiamo pensare ai tempi morti della giustizia, noi possiamo avere anche la possibilità di ridurli attraverso l'uso sì dell'informatizzazione, ma prima ancora di questo utilizzo dovremmo, per esempio, fare, come dicevo, una cernita nel sistema delle notificazioni, tra quelle notificazioni che sono assolutamente indispensabili e che devono raggiungere direttamente l'imputato e quelle che invece possono essere effettuate solo ed esclusivamente al difensore. E la possibilità di un lavoro di questo tipo c'è, fuori dalle polemiche. E l'interlocuzione che come avvocati avete da parte dei responsabili degli uffici e da parte dei magistrati a Milano, in concreto, da questo punto di vista ha fatto fare passi in avanti o è ancora, voglio dire, un dialogo tra... Allora, guardi, a Milano bisogna fare una distinzione fondamentale. Milano costituisce un'esperienza virtuosa sicuramente nel fronte del processo civile. Ormai credo che attraverso vi è proprio un sistema anche da remoto che consente agli avvocati civilisti di poter accedere direttamente agli atti e anche ad interfacciarsi e interloquire con gli uffici giudiziari. Questo grazie anche, come è stato ricordato dal Presidente Pomodoro, da un lavoro egregio svolto dal Consiglio dell'Ordine, il quale ha anche investito dei denari sotto il fronte del processo penale. E in questo momento sta forse per partire, ma con un certo ritardo, l'informatizzazione degli atti dei procedimenti penali che giungono alla fine alla conclusione delle indagini preliminari, quindi al cosiddetto, o meglio, all'avviso di quell'articolo 415 bis, quindi l'avviso di conclusione delle indagini. Questa informatizzazione dovrebbe fare in modo che la consultazione di questi fascicoli sia effettuata su supporto informatico. Quindi diciamo, insomma, per quello che riguarda la giustizia civile, passi in avanti sul penale. Per il penale ancora siamo indietro. Ci sono state nel tempo alcune esperienze importanti, come quella dell'ufficio del Tribunale di Cremona o come quello che si è necessariamente dovuto effettuare a Parma proprio a seguito dell'impatto fortissimo che su quell'ufficio giudiziario ha avuto il processo per Parma. Bene, ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci tornati al problema della efficienza, dell'informatizzazione degli uffici giudiziari, dell'accesso ai documenti alle parti, rispetto però anche a un problema che è quello dell'efficienza delle risorse. Bisogna fare, si può fare, abbiamo sentito, molto meglio con le risorse, tante in realtà, che sono state spese in 10 anni rispetto all'allarme con cui avevamo cominciato l'anno. Sentiamo rapidamente 2 telefonate di ascoltatori e poi anche il punto di vista di una terza parte che però è fondamentale nell'efficienza poi degli uffici amministrativi della giustizia, cioè quella dei cancellieri. Sentiamo innanzitutto Giuseppe che ci chiama da Pavia. Prego Giuseppe, qual è la sua esperienza? Pronto? Io ogni tanto bazzico i tribunali e devo dire che a macchinari sono veramente molto forniti. Il problema è che sono buttati lì nei corridoi e non utilizzati, poi perché manca la presa di corrente elettrica o cose di questo tipo. E personale, devo dire, ce n'è parecchio. Peccato che sono tutte la macchinetta del caffè. Quindi ecco, lei ha un'opinione drasticamente, insomma, critica rispetto a come davvero ciò che viene comprato viene messo in funzione. Sentiamo invece quello che ci dice Lorenzo, che ci chiama da Roma. Senta, 35 anni che noi lavoriamo con il Ministero della Giustizia, consorzio di imprese private. Abbiamo fatto il registro Regge, per cui qualche esperienza ce l'abbiamo. Quindi voi siete dei fornitori dal punto di vista dell'informatizzazione? Con noi abbiamo fatto tutto. Allora, arriviamo al punto. Prima di tutto hanno dato adesso l'assistenza alle 3 grandi società, le più importanti, dico anche Telecom per non dire gli altri, che non ci capiscono niente i funzionari che vengono a lavorare, per cui si è ridotti in questo stato e il Ministero non paga, giustamente. Poi, il processo civile e tutto il resto. Nessuno sa che cos'è l'informatica. C'è un sito, si chiama processo via web.altepista.org, dove è spiegato chiaro che gratis potrebbe partire, perché il Ministero ha comprato per centinaia di miliardi di server che non sono utilizzati perché non è mai partito, e potendo utilizzare un sistema semplicissimo per chi sa a che cosa serve il computer, che gratis potrebbe partire, ma non se ne riesce a fare niente, perché i dirigenti del Ministero della Giustizia non sono informati, a capo del servizio penale in civile, è gente che viene dall'amministrazione della giustizia e di informatica non ne capisce niente. Mi consenta di fare una domanda. Nella vostra esperienza di 25 anni, quindi vorrà dire parecchio, i responsabili principali della inoperosità di ciò che è stato comprato per quanto riguarda poi il loro efficace utilizzo sono i dirigenti centrali che presiedono dal Ministero all'efficienza del sistema o sono i capi degli uffici locali della giustizia? A Napoli, il ministro Fassina hanno messo centinaia di server e adesso li hanno sostituiti con quelli nuovi e non sono mai stati utilizzati. questo le spiega perché a Napoli, perché a quel tempo comandava Bassolino, mai utilizzare. Se lei va su un sito a vedere capirà tanto. Io ho partecipato a tutte le sessioni di lavoro, ma non sanno l'importanza dell'informatica, come forse se lei dà un telefonino che si collega via web lei lo usa soltanto per telefonare. Questo è il dramma. I soldi vengono spesi, ma vengono spesi male. Adesso è Telecom, sta facendo la parte delle ore, ma non sta lavorando, lavora male, dà lavori in subappalto e nessuno va a informare. È come l'immondizia, se io non so dove andare a mettere è inutile che la raccolgo. Ecco, così c'è qualcosa del genere. Ecco, io ringrazio Lorenzo perché particolarmente di queste testimonianze di addetti ai lavori, sia pure esterni, che secondo me può vivere una revisione critica di quello che si è fatto fino a questo momento. Le risorse, in quanto tale, non sono in grado di risolvere il problema se chi poi ne deve garantire il buon impiego non è in grado di capire che cosa si può fare con quelle macchine, con quell'hardware, con quel software. Sentiamo invece l'opinione strutturata di Vincenzo Maria De Nittolis, che ripeto è cancelliere presso il Tribunale Ordinario di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ma sicuramente la disamina che è stata fatta dagli interlocutori che mi hanno preceduto è corretta. Molto spesso le risorse ci sono, ma evidentemente ci sono dei corticircuiti, dei blackout che impediscono poi una resa migliore del servizio a giustizia. La mia esperienza, perché io parlo come un lavoratore della base, certo, di un ufficio, certo, di prima linea, perché sono responsabile di una parte delle cancellerie dell'ufficio GIP del Tribunale Ordinario di Roma. E quindi stiamo parlando di uno degli uffici giudiziari di maggior rilievo dell'interno ordinamento italiano e anche dei maggiori carichi di pendenza, eccetera, eccetera. Esattamente, ovviamente poi le dimensioni sono importanti perché sicuramente Roma non è Bolzano. Ha fatto il presidente Tarfus era Bolzano e connaturato anche le dimensioni del carico e delle pendenze di un ufficio giudiziario come quello di Bolzano. A Roma abbiamo difficoltà di diverso tipo dovuta anche al numero, alle pendenze che si registrano. E apposta l'abbiamo chiamata. E invece lì a Roma che cosa si tocca con mano? Beh, si tocca una carenza, indubbiamente le cifre che ha citato lei, che sono veritiere sicuramente, sono impressionanti, ma a livello appunto di ufficio giudiziario di prima linea evidentemente c'è qualche discrasia, perché le dico solo che 2 anni fa noi abbiamo fatto una protesta ufficiale chiamando stampa perché non avevamo neanche la carta per le fotocopiatrici, molto spesso le attrezzature non sono adeguate anche a livello di computer, molto spesso abbiamo la necessità di cambiare dei computer non perché non sono di ultima generazione ma proprio perché sono talmente lenti che appunto si sta del tempo a fissare lo schermo perché evidentemente diciamo che la testimonianza e l'esperienza diretta da chi deve presiedere l'organizzazione della cancelleria di una parte importante l'ufficio di GIP presso la Procura di Roma è questa. Chiedo al dottor Tarfus una considerazione finale, un minuto di riflessione finale. Si metta nei panni di chi ci ha ascoltato e di fronte all'allarme che c'era di tribunali chiusi perché mancavano questi 10, 15 milioni, 30 milioni eccetera eccetera, si è sentito dire che le risorse ci sono state spese molto, l'esperienza di chi fa fornitore dice sì però guardate che qua non sono in condizione di capire che uso farre, viene tutto buttato e spesso non utilizzato e quindi si spreca tutto, perché il cittadino italiano di fronte a una descrizione come questa dovrebbe poi continuare a nutrire la giustizia, fede e fiducia nella giustizia da una parte e nella politica dall'altra che ne presiede l'organizzazione? Come se ne esce secondo lei, dottor Tarfus? È una bella domanda, però vorrei solo prima rispondere una cosa al cancelliere, che saluto. È vero che le pendenze a Bolzano sono diverse che a Roma, ma anche i soldi sono in proporzione minori, i magistrati sono in proporzione minori, il personale in proporzione minore. E una cosa su cui io battaglio da anni è che si dice ma questa cosa che hai fatto tu si può fare solo a Bolzano. Allora, fortunatamente di Bolzano in Italia ce ne sono tante, non esistono solo zone di crisi nel nostro paese e di criminalità organizzata, fortunatamente ce ne sono tante di zone come diciamo adesso in maniera molto grossolana civili, no? come a Bolzano. Ma io dico anche che proprio sono proprio gli uffici grandi e complessi che hanno maggiore bisogno di essere organizzati meglio. E non ci si può sempre trincerare dietro il fatto: ma noi siamo grandi e da noi non è possibile. Questo bisogna iniziare, ci si metterà di più, ma si deve iniziare, e a maggior ragione quegli uffici grandi complessi, e dove ci sono i problemi grossi e le pendenze grosse e le problematiche grosse. Ecco, detto questo, io prendo queste sue ultime parole come conclusione che faccio mia, perché la mia sensazione è che anche di fronte a questo annoso problema delle risorse per la giustizia, che avvelena i rapporti tra magistratura da una parte e politica responsabile pro tempore dell'efficienza del servizio, è ovvio che lo scontro su altro, sulla riforma ordinamentale, però intanto la questione delle risorse è una delle questioni fondamentali. Oggi secondo me abbiamo toccato con mano e rappresentato ai nostri ascoltatori una cosa, che volendo darsi uno spirito di cooperazione si può fare molto molto molto meglio con quello che c'è. Forse anche in questo settore della vita del paese così delicato, questo è lo spirito da intraprendere prima di continuare a dividersi, a insultarsi, a polemizzare velenosamente gli uni contro gli altri per dire dateci di più. Intanto, se anche in questo settore facciamo il meglio con quello che c'è, che è parecchio, si può fare un passo in avanti per salire qualche posto almeno nelle graduatorie internazionali, non essere sotto il Gabon e il Ruan. Ed è questo lo spirito civile, ripeto, lo dico a tutti gli ascoltatori, perché oggi non volevamo fare alcuna polemica sulla riforma ordinamentale, ma porci il problema di una giustizia verso la quale i cittadini possano essere meno sfiduciati di quello che avviene nel nostro paese e soprattutto gli interlocutori internazionali, perché è di qui che si misura l'attrattività di un paese. E con questo siamo costretti a concludere. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, i nostri ascoltatori. Oggi, ohimè, è una cosa un po' straordinaria, mi avete sentito per telefono, ma da domani torno in studio. Appuntamento a domani, linea al giornale radio.